suicidato, dici? Suicidato, dici? Ma dove vuoi le musiche? Per tutti, a vedere. Ma non verrà nessuno. E lo chiamo la marina. Grazie se non vedo. Ah, ma cazzo, la musica è un po' godici punk. Da metallaro. Sei tu, cazzo, ma non c'è diventare qualcuno, ma ne ho. Vabbè, io per un sera, vabbè. Io che tu vado a girarmi. No, non è adatto stasera. Poi c'è vento a nord-est, non piove. Rimane così, Emanuele. Vai tranquillo. Non c'è niente, non sta girando, non può girare niente perché c'è questo vento e quindi sta spostando tutto. Domani è bella giornata. Sì, lo penso anche io, domani ha detto che è bello. Chissà. Speriamo che non fosse andata anche tu gaggio, che non si può dire a Cimbrano! Beh, buonasera. No, no, massimo 28-29 gradi. Magari all'ora di punta arriviamo a 30, ma comunque vento caldo non ce n'è più, caldo non ne fa più adesso. Si sta bene. Sei un bel convinto allora, che non ne fatti caldo, è la prossima ghetta a vedere. Sì, ecco, è cazzo caldo, è caldo, non è che, ma non come, non arriviamo a 40 gradi no, a metà settembre, ma stai scherzando, è impossibile. Ci sono punte da 30 gradi, c'è caldo, certo, si sta benissimo però, perché ci sono sempre venti da nord-est, nord-ovest, hai capito, maestrale, grecale, ponente. Qualche volta c'è un po' di ribeccio, ma a scirocco non ne fate più, quello che ha fatto. Ha messo punte di 35 gradi. Punte di 35 gradi, ha messo, ma bisogna vedere dove li ha messi. Se li ha messi a Sassari o se li ha messi al sud Sardegna, al centro Sardegna. Claro, in tutta la Sardegna l'ha messo, in tutta la Sardegna, soprattutto a Sassari. Le punte dai 32 ai 35 gradi, torna al caldo. E noi andiamo al mare, adesso che la gente sta lavorando e si è tolta dai coglioni. Infatti io domani sono al mare, e mi sto planciando la camicia che tra un po' me ne esco. Gappa, gappa, no, io sono a casa, non vado da nessuna parte. Non ne ho voglia, non ne ho voglia, capito? Mi avvicinerò da Ilaria più tardi al bar e boh, e poi me ne rientro a casa. Magari usciamo domani a fare un giretto. KK, dai, riprendi il clac, un attimino mi assento, che sta aspettando la marina a vedere chi la vuole uscire, dai. Tanto la barba me la sono già fatta, la doccia, lo stesso. Allora mi brancio, mi pongo un po' di gelatina, anche sui liberi che mi sono rimasti in capo, e mi zescio. E rientro, boh, stanotte, mezzanotte, luna, boh. Poi domani mi vado al mare. Ecco, ma la gelatina buona al mangagliotto l'hai buccia? Ah, lui, la gelatina al mangagliotto l'hai messa? Poi te la do pure la gelatina. Se ero mangaglio me la bongo io. Sì, sì. La gente esattamente dice che quando si riesce da questo si deve chiamare l'antenna. La gente non fanno da sola. Non deve fare niente, per togliere col bastone di scoppa. Basta. Capito? Oppure io gli ho letto, sganciati dal barilotto, quella base magnetica, lasci la Grand Play dov'è? Ti agganci la Grand Plane al barilotto che entra dentro il cavo e poi quando siamo assieme facciamo l'inversione. Adesso voleva staccare al posto di quell'antennino di macchina, voleva mettere quella che gli avevo dato io e metteva quella. Vabbè, ma se lo vogliamo fare assieme laggiù di tu, basta che tu stacchi dal barilotto l'antenna a base magnetica e ti colleghi con la Grand Play senza fare nessuno spostamento, no? Visto che il cavo è lungo. E si mi lascia di tu, no, già me la già anche da solo. Beh. E allora vuole mettere tutto il cavo nuovo, forse è meglio. Meno dispersione, c'è, capito? Mette tutto il cavo nuovo, lo fa lungo. E che fate, che TBL è un po' guitrani, Edu. Ci fate l'UBL mentre ha fatto la televisione, addio antenna. E ma come mi dirà, mi sono ballone, antenna nuova, vivo. E la spinotto. Sì, fino alla giuvito era lo spinotto. Infatti hai visto come si vede adesso, quando ho fatto lo spinotto nuovo. E la Duca di Dutto. Tagliato, rifatto nuovo, è fatto bene. Vabbè, non lo so, veda lui. Io anche domani mattina, vediamo. Ci vogliamo prendere un caffè, magari si fa un salto e si piazza l'antenna. Si va già in tutti i casi. Non lo so, non lo so. Se no dorme tutta la notte. Se non si devi agganciare stasera. No, ma mi sembra oggi no. E bari oggi bari la Ribal. Ma non so se poi deve andare da qualche altra parte. Qua siamo. No, io non esco. Non vado a Cabesci, perché io non esco. A domo. Poi stasera c'è la pizza. Sicuramente verrà mio Genova, perché poi andiamo a trovare la mia figlia che è a lavoro, esce alle 10, quindi se esce alle 10, non lo so, dipende dalla gente che c'è, non è Giovanna, ma sto a casa, sta così bene. Vabbè, un giro di altro poi va, tanto là non è che vi siano i turisti ancora, questa comunità di sì, che la ciappi. Se esco a Sassari, vado al Ghero, Porto Torres, non ci rimango a Sassari, ma non ne ho voglia neanche mia moglie, no? Non la giugana, no? Ma lo è, sta così bene a Sassari, a casa soprattutto. Mi so come un canale di campagna avesse fatto danno, c'è ancora tutta la GAD. Dalle parti di San Camillo, dove c'è la campagna mio cognato a Bade Tolda, prima di dove sta Torino, nel discesione ha frenato un poco di muro, muro a secco. No, io non ne ho muro a secco. Non ne ho, no, danno nel senso si è tappato i tombini del piazzale, ma ho detto a mia figlia di controllare, mi ha detto che era tutto a posto. Quella roba lì bisogna pulire sempre, capito? Sennò si allaga tutto. Che c'è il caverio dell'acqua, quindi bisogna stare attenti che non vada a terra, che non vadano foglie, aghi di pino, quella roba lì. Vabbè, speriamo che non faccia danno a vero. Casa a casa non è che sul casino che ha fatto. Ogni anno così. Dalla base di Urbano a Tessi. Quando iniziano i denti veri iniziano a pulire i bombini. Sì, ma infatti la paura è sempre di abitare in campagna in zona bassa. Mia figlia già non ha quel problema perché è molto alto, quindi lei va già non rimane, già cammina, già curri. Però che nella parte bassa è sempre un pericolo, sotto le montagne, sotto, capito, le pianure. Chi si allaga tutto. Mi ricordo a Capoterra, cazzo, il casino che ha fatto a Olbia nelle case basse lì. Purtroppo bisogna stare attenti a queste cose. E cazzo a sorso grazie da tutta la radda Mattesi. Cazzo, ma com'è che fa radda? Ma vai da una lampada di... Sì, non dire a me, no, che stavo lavorando io quando è arrivata la bomba d'acqua, io ero a cazzo al sardo. Mi hanno chiamato urgentemente a rientrare all'impianto di sorso che era saltato tutto in aria. Che l'acqua è arrivata alle cabine elettriche, capito? Quindi figura di due, perché da via Castelsardo, dall'ingresso di Sorso, l'impianto è giù nella bassa valle, quindi da via Castelsardo l'acqua ha camminato e è arrivata sino all'impianto. Ha spazzato tutto, ha fatto un casino di Gesù Cristo. Quindi abbiamo dovuto staccare la centrale diretta di alimentazione e attaccare i gruppi elettrogeni per poter far funzionare l'impianto, perché è andato tutto in tilt. Cazzo, già lo grido. Cazzo, non si è volato il centimetro di là, è farata. Vedo uno, vedo con un gozzo, vedo con un guido, che devi andare in mare, che sarebbe, guarda qua la surf. Sì, ma io non auguro mai a nessuno che possa succedere una cosa dentro città, perché l'acqua che è arrivata era tantissima. Già tu immagina che un depuratore lavora con un ingresso del paese o della città intorno ai 1000-1200 metri cubi a secondo, fatti lo conto, di refluo baromi, di refluo, di acque nere. Quindi tu immagina che cosa è arrivato, ha strappato la griglia d'ingresso è saltata all'equalizzazione, che sono vasche di contenimento per la lavorazione del reflo in acque di trattamento per irrigazione, e ha saltato tutto fuori. Quindi tu immaginati cosa è successo, eh? Cosa vedi in parole povere di merda? Già me lo posso immaginare, va, ma già me lo posso immaginare. Io qua, meno male, dove siamo noi qui, no, non è mai successo. Mai successo. Dove c'è solo l'allagato, non so se sai, dove c'è la Madonnina è la vista di Via Pascoli, anche non pure nei Dombini. Sì, già ci ho abitato in Via Pascoli, io già lo so. Ma quando salta un impianto di depurazione, bisogna stare molto attenti, capito? Perché fa danno, i reflui vanno nella campagna e sono acque sporche, sono acque con batteri che non sono stati lavorati, soprattutto nitriti, nitrati e scricchiacori, che un batterio che si ti docca va di danno, soprattutto alle piante, agli alberi, a tutto, capito? Quindi bisogna stare attenti. Siamo intervenuti in tempo, sono arrivati 3 o 4 autospurghi subito a mettere in sicurezza, poi insomma già ce n'era gente, ho spostato tutto la gente dagli impianti sottostanti, Valledori, a Santa Maria, eccetera, Sedini, Nurvi. Quindi abbiamo dato una mano e ci siamo messi in sicurezza, però cazzo, siamo stati giorni e giorni a pulire il piazzale con le pulivapore, pompe a pressione, perché poi quando secca il fango che esce, il refluo si attacca all'asfalto e non esci più, capito? È un casino per quello, è un casino per quello, infatti le cose le fanno, quando succedono i casini, le bombine, le devo levare, e io, noi non vedo che non si allaga tutto, cazzo, roba di bombine a Cagliari, roba di bombine di sopra in Cardi, ui. Lo so, aspetta, ma noi sta chiamando mia moglie. Sì, Claudio! Claudio! Pollo! Brittella! Miau! Ciao Luca! Chi è? I carabinieri di Sosso! Mi sento attratti, chi sei? Aggiunto i carabinieri di Sosso! Cazzo, la stazione è messa salita, no, non è possibile. Aspetta, devo sistemare il bilancio, la sit. È vero. Intanto vengo di qui, se questo mi lui. Adesso è a posto. Adesso sono a posto. Ma mi senti tu a me, sì? Certo che ti ascolto. Ah, bene o male? 7, sì. Non 7, 8. Ma in macchina, sì. No, in nave, sulla nave sono. Sicuro. E allora, a con Cammuro, trapanato. Andà bene bene, andà bene bene. Un po', ancora vivo, sì. Tanto è. Accelera acqua al monte, accelera acqua, con quei tombini. Tanto è, ancora vivo, sì. Eia, non mi ha portato via l'acqua l'altro giorno, no, a che non so così, ma che sci. E tu esci, tu la sembrava la garoa. Ah, guarda che se fossi uscito mi sarei preso il gommone e mi sarei seduto e sarei andato dallo spimmi. A scendere già viene bene con quell'acqua. E alzare il problema. Antone. Come salire, dai. Pompu, pomponio. No, ti sento. Non mi senti? Ti sei abbassato un bene, Luca. In alto mare sono. Cazzo, sei proprio livello della terra, mi. Ma ti comprendo. Vai in un posto alto, dove non è allagato ancora. Adesso mi ascolta. Eia. Adesso ci ho messo l'antenna sull'albero. Ah, sopra l'albero l'hai messa. Hai fatto bene. Sì. Già va bene. Luca, è sparito Luca? È sparito Luca. Che cosa sta combinando, Antonio? Nulla, non so che stai combinando. Sto facendo a me. Il cuoco la vado in terra, pulendo tutto quanto la casa, facendo la spesa, poi rientro e Porto Simone a passeggio, a farsi la passeggiata, eccetera, eccetera. Non hai trovato nulla ancora? No, ho capito. Ho detto, non hai trovato niente ancora. Ui, ma stavo... Ho guardato, mi è arrivato su internet, in pratica stavo cercando il personale per poter insaccare le cose, i pasti, hai capito? A tempo pieno, 1100 al mese più 1750, una cosa del genere. Ma deve essere quello di pedaliera, deve essere. Come ci va? La piedi ci va, non se ne macchino, sta tutto il giorno di buttato. Fa la guardia, a che parcheggio? No, a impastare cosa? Non impastare, no. Visto il coso, il pasto che danno in ospedale, hai capito, dimmi. Ho capito, ma quello non era volontariato. No, non è volontariato, no, 1000 passaggi al mese ti danno, a tempo pieno. E che se lo mandi? Se lo giovate, ma come cazzo ci va la pedaliera, me lo spieghi tu, cazzo, col tram ci vanno lì. Poi specialmente la bandiera gialla dovrebbe essere, perché la vita è la bandiera gialla, no? Non può essere altrimenti. Cazzo, lascia per usare che cazzo non va nemmeno. Cazzo, come va? Entrambi. Sì, perché secondo te passa il tram lì a bandiera gialla, no? Sì, basta, dai, allora. Dai, non ci passa, non c'è la fermata del tram lì a bandiera gialla. A fottidini. Basta che guardi su internet, subito lavoro. È ancora valido, basta portare il curriculum di lì. Anzi, lo mandi, fai la candidatura, lo mandi e sei a posto. Cazzo, ho cercato un'altra roba io, capito. Che è diversa, non è che guardare a... Hai capito così. Senza macchina, senza nulla. Avessi avuto la macchina, tanto quanto. Oppure il motorino. Ma sono a piedi. È inutile che ci vado. In pieno inverno, cosa mi faccio? Una doccia, secondo la testa tua. Vieni, è fatta male, non te l'ho presa la patente da giovane. Adesso a 60 anni, cazzo, ti bisogna la patente. Sì, se non mi pigli il patentino, non è quello il problema. Per il cinquantino. Devo fare una domanda, te lo sto dicendo. Entro in questi turni, ti dico la ditta che vai e gli mandi i curriculum e gli mandi la candidatura e poi già ti chiama. È a tempo pieno, i pasti, capito? Metterli, sistemarli dentro quegli affari in plastica e poi sigillarli e mandarli. Quindi fai la mattina e fai la sera. E in pratica riuscirai se no alle 8 di sera, perché già lo sai, alle 5 portano a mangiare all'ospedale, tra una cosa e l'altra si fanno le 8 di sera. E diamo la possa immaginare. Vabbè, lavoro al giorno, cazzo, andava bene a te quello, no? Oh, ma Simona come sta? Non è che stia molto bene. Sta facendo adesso un po' di cosa, di palestra per le gambe. Gli ho comprato quella ciclette piccolina, le ho comprato. E ogni mattina fa quella ciclette per i muscoli. Se no, quando si mette in piedi a volte il cazzo sembra che cade indietro, capito? Simona doveva smettere da prima, senta, fa danno. Lo so, anche contare fa danno a me, capito? Bisogna fare con calma le cose, con calma. Ma c'è stata la dieta lascia, pompù. Che è stata fortunata è cosa, mica ha trovato abbreatore, un macco, grazie. La fa vivere a Monte Carlo, la fa vivere, lo stipendio, il mantenimento ogni mese, in più se prende lo stipendio quando la chiamano in TV con la guasta, grazie. Sì, ma io devo andare di là, non lo sa nessuno, possono fare quello che vogliono. Ehi, tranquillo che ha preso 1.300.000 euro questa volta. Gli hanno chiesto subito il locale, non hai capito come è stato positivo. Ha perso 1.300.000, ha perso in una settimana. Andare. Sì, vabbè, è stato anche fortunato, beh. Perché lui ha preso solamente la febbre, ma gli altri 200 ospiti che c'erano, tutti ci hanno malati a Sassari lì. Ci sarebbe da arrestarlo, Vai a lavorare, ma non più, vai lì a Pedanida. Ti prendo una bicicletta, quelle biciclette con pedalata assistita, da lì a casa tua, se ti fanno di economia 50-60 km. Ecco, poi quando faccio la curva al Citamercato per andare via Panottore, se hai capito, mi sveglio tutto bagnato. Cazzo, l'acqua che mi ho preso io quando andavo a lavorare in motorino, tu non hai un'idea. Si baci da no, Garice di Manzano, banda a Usulo a travagliare, non a Perdanieta, no. A Usulo si scio. Perché io accompagnare la non te lo ricordi? Tutti i giorni per 6 mesi. In piena estate mi puoi. Lo sai come sono entrato a casa? Ne avevo anche la faccenda della mamma solo di guardarmi, perché c'avevo i jeans, sembrava la ragazza. I jeans che pesano, per dire, fai che pesino 200 grammi, pesava al minimo 6 kg d'acqua c'avevo, mutande, tutto bagnato. E poi tu non ti dico niente, non rientri da come ti mi sono sgubizzato, ragazzi. Una freddore, un coso, eppure sono uscito lo stesso, con la febbre accompagnata a Simona lo stesso. Mi sono comprato i pantaloni, quelli plastificati, e sono uscito, perché erano i primi temporali estivi. Un pugno con le gambe pelose. Ah, e quindi dove l'hai seduta? Una sedia di dietro o una sedia di davanti? Le sedie davanti ero seduto, Simone era sedia di dietro, ma si è fermato un poliziotto, andiamo alla faccentella, perché mi ha fatto la doccia. Gli ho detto guarda, dice sta bene, ho detto certo, se mi dà lo shampoo, ho detto sono a posto, gli ho detto, e non asciugamano. Gappa gappa. Va bene, va bene. Chi era l'altro? Marco mi è sembrato, tu sci. Un pugno con le gambe pelose. Ciao, bello bene, anche a te. Non sono con le gambe pelose ancora, ben sentito, è barrato. Pedalando come un ciclista. Allora, ciao Vito, buonasera, ben sentito. A tutti ben sentiti, non so se mi ascoltate bene, che sono con un marchingegno che non fa le frequenze giuste, sarò fuori di un kilohertz e due, un kilohertz e tre, non lo so più o meno. Sì, gli arrivi, ma va bene, ti è uscito anche stamattina, in 40, in macchina, il pane comprato l'hai? Sì, vado al forno, roba buona, farina buona, lievito madre, bravi. Sì, ce l'ho ogni volta che fai la fila, io vado al forno, ma soprattutto il sabato mattina c'è un casino, vabbè. Oh, iaia, Antonello, un nome, una garanzia, vai Emanuele, Antonino, sentito l'hai? No, la giudizio sarà ancora goccardo, sarà ancora nel mondo dei sogni. Le presenti a Antonello, Ocla, cazzo, quando avevo un motorino che patente non avevo, si bacchio dai occhi, il motorino così, si a Usulo andò a travagliare, quando arrivo lì, i ghivi, io driccia, ma a travagliare andavo lo mattessi. Il lavoro non è che devi avere la macchina o sia a piedi, devi andare per forza se vuoi lavorare. Io no, a me il primo anno che mi hanno messo a canica, cosa pensi che andavo in macchina? Macchina ne avevo una, sto parlando degli anni che furono, l'impianto era ancora a canica vecchio, adesso hanno fatto un impianto nuovo, quindi sto parlando del 97-98, non scendevo in moto, da Sassari da dove abito io a canica, all'impianto di canica, insomma c'è strada, quante volte di mattina piovendo e andavo lo stesso, e cosa dovevo temere? L'acqua. Mi pare che vero, sono entrato nel 95, quindi mi pare c'ero neanche 2 anni. Cosa fai? Molto ci mettono a mandarti a casa, perciò ne ho fatto. E poi anche a Sorso, mi hanno spostato per un mese a Sorso e sono dovuto andare a Sorso in moto lo stesso, perché macchina ne avevamo solo una, poi mi ho preso un'altra, poi ne abbiamo preso un'altra ancora, ognuno aveva la sua, però i primi periodi è stata dura anche per me, perciò. Va bene, i sacrifici bisogna farli, altrimenti non si canta messa, non si magna. Cazzo, gli hanno giubilato un poco, vai, lascia perdere, va. Cazzo, e ti vedeva, dici, cazzo, con freddo, mamma mia, e poi dici, bui, sei fortunato, bocca male, con la china. Vai, Antonio. Sì, quando lavoravo con Antonio Ciccio Bello, che scendevo giù a San Giorgio, dove c'era la sede prima del coso, dove facevo i cancelli elettrici, capito, l'Ubero tranquillo in macchina si metteva al riscaldamento, hai capito, caldo, bollente. Io al rientro dovevo uscire, dovevo rientrare in moto dalla Buddy Buddy e arrivare a casa di Mario. Un giorno ci sono finito al pronto soccorso, un mal di petto non te ne dico nulla. Mi hanno ricoverato per 4-5 mesi, Angina a petto si è mai svegliato. Quel giorno ho detto, il riscaldamento, ho detto, con me non ne uso più. Se vuoi uscire con me, gli ho detto, esci senza. Ho detto, se no, io mi rimango a casa, tu gli hai detto, vai e lavori tu. Gli ho detto, te la pigli in culo, me ne devo ammazzare io. Il riscaldamento fa male. Fa male, deve essere adeguato, temperature non più di dentro casa dove lavori, non più di 21-22 gradi, altrimenti ti scebilleggia, altrimenti ti ammazza. E vabbè, ma la moto tu ce l'avevi anche quando eri da usai, Antonè. Io mi ricordo che scendevi in moto via l'Italia. Ma io uscivo anche con l'acqua, se ti ricordi bene, andavo tutti i giorni. Da quando ho lavorato con Daniele e con Coso, quindi figura dei due, arrivavo lì alla Buddy Buddy, che lui abita di lì, a metà strada, a rientro era un casino, perché lui uscivamo in fiorino eccetera eccetera, usava il riscaldamento elettrico, perché era, oppure d'estate pigliava e attaccava il freddo, capito, d'estate. E quindi c'avevo uno sbatto di temperatura allucinante, quando mi sedevo in moto mi cagavo sotto a un certo punto, figurati. E lavorato con Antonello, mi dice, bello, gli ho detto, lo ricordi con Riccardo Torres e con Daniele. A quella volta lì che è stato ricoverato, gli ho detto, no, questa volta penso a me, penso. Poi detto, il lavoro se la prende in culo in questo modo qua, non ce lo devo finire in ospedale. E bisogna stare attenti. Io la condizionata poco ne accendo, ma non che non ci sia vento caldo, che si apri i finestrini, è peggio, capito? Ma se la temperatura è alta, però c'è un po' di venticello fresco, non ne uso le condizionate. KK, dove stai andando, Vittorio? Io non ho sentito Antone, tu sentito lei? Aspetta, aveva chiamato Simona che sta facendo una cavovilla, sta facendo. Sì, ahi, Vittorio, va bene, dai. Ti ho sentito un po' male adesso. Quindi non l'hai sentito a Tonino, Manuel? Non si è scindato ancora? No, è già scindato. Sarà già a fendere l'antenna, se no fendere a certo banchetto. è sempre scoggetta di mobile, allora si diceva un altro mobile per attrezzare dura. Ma cazzo, se avessi avuto la roba c'è lui, mi sarei messo anch'io a fare per ammazzare il tempo, capito? Prendi un po' di legname, ti metti e fai, ma io attrezzatura come c'è lui non ce l'ho. A parte il fatto che lui c'ha quella combinata piccolina, cazzo che favolosa. Quella fa tutto, ma non è, capito? Taglia a 45 gradi, levica, pialla, va di tutto. C'ha molta, molta attrezzatura, molto bella. Sì, ma se non si va a fare la dettoria del Badroni, questa macchinetta li dura a bogo, in mezzo a leva. Scusa, ma non puoi fargliela, non puoi dargliela una mano tu. Andiamo. Ne togliamo quella roba lì, ci mette il cartone catramato sotto, le tavole nuove che ci vogliono, la sistemiamo bene. Ma se dovrebbe la roba nuova, la tettoia, se gliel'ho detto di diglielo che la facevamo, che se tutta frase che sta tettoia, in amianto duro, che poi in amianto l'avevo fatta buccare subito l'amianto da Ghibi. No, ma non è amianto, sono quelle onduline trasparenti, o amianto proprio? No, è amianto proprio, claro, lascia perdere, che amianto proprio, che quelle non sono più a norma. No, quella è da smaltellare tutta, rifare bene il piano del legno, mettere il cartone catramato e metterci le finte tegole. quelle plastificate, capito? Quelle onduline plastificate a forma di tegola. Viene anche un bel lavoro. Allora, io gliel'ho detto a Tonino, gli dici, gli fa un preventivo, ci vogliono tot di ondolina, tot di questo e tot di quell'altro. Lo facciamo noi. Ma non lo so se l'ha visto, gliel'ha detto, cosa l'ha detto. Cazzo, si lamenta, cazzo, che è sempre la grande, io l'avevo detto, o mi fai la dettuia o non ti pago più l'affitto, io ho anche l'attrezzatura, lì sotto, cazzo, mi si viene a buttare a Deva, e cazzo, ogni mese vado a pagare l'affitto, non penso proprio, no, o mi si chiamece la dettuia, se no non l'avevo dato, manco Zerina. Lo so, però lì devi andarci con le buone, bisogna dirgli alla signora Maria. Capito, un preventivo leggero, materiale magari insomma che costa poco, però messo in sicurezza, perché è bella quella veranda, è anche abbastanza grande, ordinata, però cazzo, se con la leva è un casino, allora è inutile visire la veranda. Dove eravamo noi a mettere l'antenna? Da lì fino a fondo, dove c'è i mobili dell'attrezzatura, tutto allagato, perché entra da tutte le parti. E lì non si può stare, come cazzo fa a stare lì? No, quella è bella, cazzo, quella è sfruttata bene, fatta bene, viene una bella cosa, capito? E a quel punto lì, quei pilastri, il legno, quelli li avrei portati più in fuori, l'avrei allargata almeno di un metro. Ma quella non ti puoi allargare, se non vuole il padrone non puoi fare di tasca tua. Lì allora è da smantellare tutta quella termite che c'è, quel cazzo di amianto che c'è. Le travi e le cose ci sono, le traverse ci sono, è solo da cambiare la termite, mettere le ondoline buone e basta. Mia Torino, e mettere le ondoline buone, ma va messo anche il cartone catramato sotto le ondoline, girato verso il muro, capito? Saldato bene, fatto bene, dai, coperto bene. Avanti Tonino. No, è Tonino, dico. Beh, buonasera a tutti, Gio. Sì, dato di sì. Ma che sono sveglio poco fa, mi stavo stendendo la roba, mi cavolo, che non l'ho fatta. Sì, che piove. Cazzo piove, da caputo io faceva. Ciao Claudio. Ciao Manuel. Ciao Tony. Piove, cazzo, c'è vento a nord-est, non piove. C'è maestrale, non piove. Vai tranquillo, tira così tutta la notte. E domani è tempo bello, quindi asciuga. Se la lascia fuori adesso in un paio d'ore è già asciutta. Ho steso la roba del cane io, il materassino, il lenzuolino, la copertina, e un paio d'ore era già asciutto. Allora che si fa di bello? E che si fa di bello? Nulla. A casa. E tu uscito sì? No, ancora no. Sono da lavorare, mi sono fatto un pisolino, ero stanco e poi mi sono lavato la roba. Adesso me la sono stesa nel stendino. Ma devi uscire stasera? Qualche parte devi andare. Stasera devo andare a trovare una puzzolla che deve dormire a casa sua. Quella là? Quella del cane. Bene. Ma evitato, dicevo, batta da mia casa tua, vieni a tua casa mia a dormire. Non vale via, io. Cazzo, non è che sei che l'hai invitata tu, sei invitata Edda. E vabbè, si è invitata lì, giustamente, ma lei è tornata a casa tua, adesso è casa mia, ok? Da contraccambiato. L'importante è che, capito? Certo, l'importante è che si munga. Certo che sì. E poco scivola bene, raga. Allora. Va bene. Ma no, visto là che zio Tonino era sveglio, non era dormito in un momento ai tu. Stava stendendo i panni. E poi cosa va a dire, l'ondolina che piove, sì, va d'accordo, però quell'affare l'attrezzo non si rovina perché è più in dentro dove non piove, tranquillo, più c'è anche il telone sopra. Va che entra l'acqua anche se non piove, che tocca l'acqua tu lì. Questo l'ho pure capita, va che entra l'acqua anche se non piove. Allora, l'ho messo in un punto, il tavolo è più in dentro, fa giusto, ci sta sotto. Quella circolare da banco ci sta bene e lì non piove, proprio in quel punto non piove. Vai tranquillo, che le misure le prendo bene io. Comunque cambiale queste, fatti le giambare con Dorine. Hai fatto le giambare, per una ciappo ve lo dico. Non ve mai, sempre pure, oh, yeah. Niente, sì, non si può continuare così. Non voglio fare la spesa io, potrei anche comprarli io, però c'è questo, lui può dire sempre, e chi te le comprarle? Chi te le farà? A me non me le rimborsa nessuno, mica in casa mia. Devo venire a lui, non c'è un prezzo. Tu le puoi dire, sì, io prendo tutto il materiale e tutto quanto, tutte le scale dall'affitto. La questione è questa, siccome stiamo andando incontro all'inverno, l'inverno di quest'anno è tosto, ok? Allora, io devo prendere 4, 5, quante sono? Ondulie nuove, un rotolo di cartone catramatto, perché glielo metti sotto le onduline e sei tranquillo, ok? Girato magari al bordo del muro, eccetera, insomma, poi si vede. E le dici, io devo fare questa spesa, mi costa tot. Siete d'accordo se scaliamo per qualche mese dall'affitto? Basta. E senti se ti dice sì o no. Ma non lo so. Boh. Sarà molto difficile perché loro, tutti i lavori anche che gli ho fatto, ho detto no, non l'affitto non si tocca, è a parte, quello me lo paga a parte. L'altro contrattiamo, eccetera, eccetera. Allora, un rotolo di cartone catramato non basta perché sono esattamente 9 metri di lunghezza per 3, 9 per 3,27. Un rotolo sono 10 metri quadri. Quindi con 10 metri quadri non fa niente, ci vogliono 3 rotoli che sono 30 metri quadri. Ed è rimasto 3 metri circa. Quindi è circa una cosa del genere. Quindi poi c'è un altro fattore, queste onduline innanzitutto contengono amianto, sono molto pericolose, che Emanuele diceva, no Emanuele, bocciato quello che hai detto perché non esiste proprio, è molto pericoloso di pigliare le opere, mettere la busta, buttare così, perché lo vedrò oggi, domani, dopodomani, poi ti dentare e poi ti arricchiare. È un materiale molto pericoloso. O fate una cosa, una bala meccanica, tra cua, fate un posto, se ne chiuderete un conto, se no chiama la squadra speciale, paga e te la butta. Perché io non posso continuare così, perché i scenoghi, a parte c'è un colabrodo, questa tettoia che è un casino. E mangiare che il cane me lo fa casino, butto via. No, non va bene, non mi piace. Tutto l'estate dicendo e non è niente. Vai Manuel. Vabbè. Il materiale già lo so che non si può buttare in discarica perché non te lo prendo, perché quello è un materiale nocivo. Quello lì, l'unica, sì, fare un buco, ma avevo cazzo la bala meccanica, fa un buco e l'hanno passato tutto dentro lo fosso, come ti sei risendo tu. Ha buttato un po' in galera per cosa, ma va così, quello va... chiamato il padrone di casa e fatto staccare la parola di casa, non puoi buttarlo così sottoterra, ma sei matto. Mia pompugno, cazzo, Antone, ma se lo sapevo io il padrone, finisce lì, non so che non si può fare, niente si può fare, neanche rubare si può, eppure i ministri rubano, neanche uccidere si può, eppure ammazzano, allora nuda si può fare, eppure si fa lo stesso. Lo so, lo sai dove ce l'ho messa io con la roba in campagna? Ho preso uno di quei bauli vecchi che ci stava preso là dentro, l'ho fatto tutto a pezzi, a mani nude, con la mazzetta, ce l'ho messo dentro al baule e l'ho buttato, e ancora l'ho buttato in campagna, figurati tu. Poi di non vederlo, non sai che venisse un controllo, hai capito? Che in pratica quella roba lì, se te la vedono in campagna, immediatamente ti mettono la multa ai balancini, hai capito? Quindi ci ho messo dentro, come si chiama, e lì l'ho lasciato, non so se c'è ancora il baule o se è stato buttato, boh, perché sono una bellezza di 10 anni che non ci scende in campagna. Allora i Baraccelli ci fanno una la pippa, perché i Baraccelli in una proprietà privata non può entrare, posso passare con l'elicottero, fotografo, vedo che c'è l'amianto, ecco, allora posso intervenire al mille per mille, quello sì. Comunque lo sappiamo che l'orba non ci va, c'è una squadra e c'è un costo per togliere quella roba e portarla via. Siccome ti dice non vuole PD, che non vuole PD solo con Maurizio e Busciacara, quindi li conosco abbastanza bene, mi gioco dei zanni, non che li conosco. Ogni pastore conosce le sue pecore, quindi avanti qua. Lo so, però non è tanto pericoloso quando tu allastre all'astre lo metti da una parte e lo copri. È pericoloso, se lo fai a pezzi devi stare attento alla polvere d'amianto, perché quella che uccide, capite? È quella che si sbriciola che uccide, non è proprio la lastra in se stessa, è la polvere di amianto che uccide. Quella uccide, quella fa male veramente. Quella è una cosa che bisogna stare molto molto attenti. Quindi lì, anche nello smaltellamento, anche nel, non è che ci vuole uno così, smaltelliamo, te passo, no. Devi lavorare con la mascherina, devi lavorare con i guanti, con una tuta speciale di quelle che poi si buttano, devi essere coperto, non è una cosa da smaltellare così alla garlona, ragazzi. State molto molto attenti, perché quella roba lì è pericolosa. Poi va smaltellata in una certa maniera, va appoggiata piano piano a terra, è portata via possibilmente intera, ok? Senza farla a pezzi e senza batterla, perché la polvere d'amianto è pericolosa. Passa da tutte le parti, non è nuda da va. E poi l'ha fatto con la mazzetta, ci l'hai fasciato, a mani nude. Avanti, Cicomì. Antonello, Antonello, lui deve avere i guanti, quelle tutte usaggetta e mascherina, non le deve fare così a mani nude, a mani nude, a buffonendosi, vai qua. È pericolosissimo, ragazzi, ma state scherzando? Io ve lo dico perché ho fatto responsabile della sicurezza per tanti anni e alcuni impianti vecchi, le casette dove c'erano i gruppi elettrogeni, dove c'erano i serbatoi di gasolio, erano fatti con questo tipo di materiale. E quando la direzione ha deciso di smantellarli tutto, fare appignate, gettare, mettere tegole, cioè fare cose belle e nuove, è arrivata una squadra speciale da Cagliari. Io li ho visti come trattavano queste lastre, capito? Ma sto parlando di case, quindi 10 metri, 8 metri per 3, per 4, cioè delle stanze, capito? Quindi un tetto non molto grande, però c'era un trattamento particolare. Erano tutti belli attrezzati, con mascherine, guanti di un certo livello, quelle tutte gli stivaletti, cioè cazzo, ma buffonendici. E poi quando lo passavano imbragato, lo appoggiavano sopra le tavole, neanche al terreno, poi lo fasciavano tutto quando dovevano portare via, l'hanno fasciato tutto col nylon, rotole di nylon sprecavano, e lo prendevano, lo mettevano nel camioncino e lo portavano via, cioè non è che li fasciavano a mazzetta, no? Cioè cercando di stare attenti a non fare polvere d'amianto, perché quella è molto molto pericolosa, capito? Quindi bisogna stare attenti. Se quel lavoro si fa, Tonino, bisogna farlo veramente con molta molta attenzione, no a mazzetta, scalpello, lampane in dutto, cudi tutto in terra, no, non funziona così, no. È un casino, non so quanto mi ho smantellato su a Milano in una casa vecchia, okay, in un sottotetto, per carità, cazzo, erano tutti in bacco caldo con mascherina e quelle tutte useggetta, guanti, e poi a buttarla avevo fatto un coso, un poco di garage, un poco di ghisa, e l'abbiamo piano piano portata via, l'abbiamo mischiata insieme alle macerie, capito? Certo, però bisogna, ti ripeto, ci sono delle regole, è un metodo di sicurezza da seguire per poter fare un lavoro del genere. Non è che bisogna farlo come stai smaltellando le tegole o un muro, assolutamente. Io li ho visti e ti dico che sono rimasto molto così, perché avevano la massima attenzione e delicatezza. Non hanno i fasciato una, ne toglievano i tirafondi, piano piano, le sollevavano, capito, con degli affari di legno, dei tacchi di legno, una volta che scattava dal foro del tirafondo, se la passavano in due, in tre, erano in quattro, figura, due osso e due sopra, se la passavano dritta, piano piano, la appoggiavano a terra, capito? No, il fascia adulto, io qui la mazzetta e fascia impressa, cazzo, ma buffonendici, devi chiudere tutta la casa, devi chiudere lì, perché c'è la polvere d'amianto, ti va dentro casa, tu manco la vedi, capito? La respiri solo, anche quando sei addormentato, mi. E addios polmoni, Tony. Si è sentato un attimo, Ocla, riprende subito. Ma è così, Ocla, è così. Immaginati, vabbè, io parlo solo che ho parlato di campagna, perché in campagna abbiamo fatto così. Ci avevo messo dentro alcuni, perché Babbo c'aveva la mania di recuperare tutto, addirittura si pigliava anche i marmi dei monti, ce n'è uno, ce n'è col nome e cognome di quello. Figurati, Babbo pigliava la carriola, ci caricava tutto, portava tutto quanto in campagna. Figurati tu. E quindi faceva la casetta del cane, tu immaginati il cane, quello che respirava lì. Invece del rizzetto, ma io ti parlo del tanto tempo fa, ma prima di andare da lì avevamo scoppicchiato tutto il tetto per fare le canale nuove di scarico dell'acqua. Io ho lavorato a testa in giù, ho lavorato legato a testa in giù, io e altri quattro. Abbiamo dovuto togliere tutte le Ethernet, smontarle da lì, farle tornare indietro, riagganciare, far saldare le canale nuove di discarico e cose del genere, e poi di nuovo ritappare. Quindi in pratica ci ho strisciato sopra bello tranquillo. E vabbè, anche quello lavoro. Ma lì, Manuel, per risparmiare, Tonino, si può smaltellare quello e poi mettere quell'ondulina trasparente, quell'ondulina, capito, che costa poco e però efficace. Però efficace, capito? Quindi si fa un lavoro fatto bene, quella si attacca con i tirafondi, già lo sa Tonino, con i tirafondi direttamente al legno. E basta, non è una grande spesa, però devono darle l'ok, perché se non ti danno l'ok è così, bisogna vedere. Ci sono anche quelle tegole finte, da bricco, mette quelle, sono più belle, l'importante è che se fa legno ci metta il foglio incatramato, quello rossiccio che c'è il granulato sopra, capito, in modo da isolare il legno. Poi ci mette, gli aggancia quelle tegole larghe, finte, e tranquillo. Ci può anche camminare sopra, non so l'altro. Sì, ma ci sono tanti materiali, plastici, capito? Non è un problema. Se poi non li vuoi punire pan nuda, basta mettere bene il cartone catramato, ok, con le fatto bene, problema non ce n'è. Non è che rifare un raio, però se vuoi fare una cosa fatta bene esteticamente ci sono le finte tegole, c'è l'ondulina colorata molto bella, va bene, non è una grande spesa. Però qualche io gli avrei chiesto a Vittorio, a Sina Maria o a Tony, gliel'avrei detto c'è da fare questa spesa, se volete io sono pronto, c'ho anche chi mi aiuta, lui sa che il problema non ve ne è, capito? Io c'ho tutta la attrezzatura, c'ho mascherina a filtro, quello grande che usavo in depurazione, quella era la mia personale, quindi ce l'ho conservata. Guanti di Arugiai che non se ne mancano, quelli in pelle, quelli tutte si comprano al bricco, mi costano i 2 euro l'una, quelle tutte da buttare. Ci organizziamo bene, si smaltella, si mette da una parte e poi gli si dice a lui: cosa vuoi fare per questa roba? Chiami un camioncino. Però deve essere un camioncino che faccia il coso, il, come si dice, il formulario, non è uno diciamo da Santa Maria, ci vuole uno che sia abilitato al trasporto, capito? Perché vuole fatto il formulario, in modo che se ti fermano il formulario, da dove l'hai preso, dove lo stai portando, tutto, e si fa una cosa fatta bene. È sparito il coso. No, a Tonino stavo dicendo, capito Tony, prova a proporgliere a Vittorio a Sina Maria, non c'è bisogno di prendere questo materiale costoso, ce n'è materiale che costa poco, l'unica spesa che dovete fare è il cartone catramato, si mette il cartone catramato, se ci sono pezzi di legno da sostituire si sostituiscono, e poi si può prendere quell'ondulina colorata che è molto bellina, che non costa molto, capito? E per lo smaltellamento veniamo io e Emanuele a darti una mano, ci organizziamo bene con mascherina, tutta da buttare via, guanti, si appoggia tutto da una parte e poi si dice a lui, chiama uno a portare via questa roba in regola, capito? Non ce n'è problema, si appoggia fuori, si copre con un telone, con qualcosa, l'importante è non farla a pezzi. E beh, quello si sa, che cancello c'è questa roba qua, e i territi non ne fanno più per quel motivo, che è pericolosa. Io appena vedo Vittorio glielo dico, già, poi vediamo se vince, già aveva detto all'inizio, una guaina liquida, compriamo le termite qua così non perdere, eh? Poi dopo 2-3 mesi, belle giornate alquanto, c'era anche mio nipote, l'ho chiamato e ho detto, beh, ma questa guaina vedi tu, aspetta che lo dico a Maria. Dopo mezzo mi ha chiamato e a tu, niente, bocciato, cazzo bocciato, io rimanevo con la tegola così, cazzo, con le ternite con l'acqua, perché tutto spaccato sono le ternite, ecco perché. Ancora il legno è buono, se continua così non so quanti anni il regista e poi si pratica ce ne farà tutto. Allora, non mettere niente sotto, se prima non perdeva, si toglie quella lì e si compra l'ondulina, quella colorata. C'è rossiccia, c'è anche trasparente, c'è che costa poco. E gli dici, Vito, io questo lavoro devo fare, non posso passare un inverno che mi entra l'acqua dentro, ok? Lo compro il materiale, mi aiuta, diglielo, mi aiuta Claudio con mio figlioccio, ok, lo facciamo il lavoro. E poi vuol dire per un mese e mezzo, quello che ho speso non ti chiedo una lira in più, non ti pago l'affitto, basta. Che cazzo lavoro devono fare? Cioè, ridinarsi di bigliani, eh? Lo so. Tra l'altro poi quegli armadisti che ho, l'hai visto la roba che ho, il materiale nuovo anche, a me un po' qualche goccia cade anche l'acqua, la zona lì, e a me mi spiace se comincia a rovinarmi l'attrezzatura, mi si rompe il coglione. Sì, ma lì se non metti il cartone catramato, Tony, che va smaltellata quella merda che c'è, e metti l'ondulina con i tirafondi, già lo sai come si fa, no? Lo spessore del tacco del legno sotto, il tirafondo che va a agganciare il legno della tettoia e si silicona, a parte il fatto che ci sono i tirafondi con le guarnizioni, come se ne va a castare e se lo tira direttamente. Quindi se è piazzata bene quella lì, acqua non te ne entra più e non ci arrivi neanche a spendere 300 euro di materiale, no? Quindi quello che spendi, cioè io ve lo scalo dall'affitto. Se più di 300 non ve ne pago, se meno di 300 vedo la differenza, appunto. Allora Cla, il fattore è uno, ecco il 5 è rientrato, il fattore è soltanto uno, ogni volta che le dico certe cose, sa cosa mi risponde? No, ma intanto qua devo tutto rifare, devo tutto aggiustare, tutta la casa, lì la sposto un'altra parte, ecco se ne esce così, e capo a cavallo che le cresce, sono sempre così. No, grazie, allora no. Allora avremo una goccia, quando sei pronto, venimo io e Emanuele. Emanuele, si può fare un biarone di quello leggero leggero? E cudibizziru sopra guricoburu dove è spaccata l'ondulina, attiene. Allora, ci sono, adesso te lo dico subito, c'è quel materiale a pasticcone per non entrare l'acqua, per non filtrare l'acqua, però quelle onduline che c'ha Tonino sono spaccate, se era stato un pochettino svenato, si poteva mettere un po' di biarone, ma siccome sono tutte spaccate. E allora basta prendere un bidone di quel plastico a pennello, scusa quello che si dà che è bello giagato. E si coprono questi tagli, cioè si dà una sistemata giusto per non scendere molta acqua. Penso che si possa fare quello, Tonino. Un bidone di quelli l'ho preso io su per il tetto qua a Sassari, gliel'ho dato a pennello perché mi stava facendo delle macchie sui mansarda, no, non sono più uscite le macchie. Sì, quello lì è quello rosso, il migliore che c'è. Sì, Claudio. Ma quello posso anche due bidoni, posso comprare. Però allora, il mio problema, che penso, ed è un problema, è solo uno, Claudio. Per salire sopra bisogna mettere almeno uno di quei tavoloni che Vittorio ce l'ha, quelli di cantieri gialli grandi. Ma appoggiandolo sopra e salendoci una persona per dare quel materiale lì, non è che poi si spacca l'ondolina? Perché ormai l'ondolina è una vita in chi vi sopra. Non è certamente pratica, che secondo come metti il tavolone grande e largo, che quelli sono 3 metri per un metro, penso fosse abbastanza larghi e belli. Non è che poi si spacca, il problema mio è quello. No, Tony, non si fa lavoro così. Quando c'hai quella misura lì, puoi lavorare da fuori, perché chiaramente ci vuole un trapattello, fatto ad altezza, in sicurezza e tutto. Ti fai il rullo, un rullino piccolino, ok, che entri dentro il bidone, e ti fai il telescopico, lo allunghi sino a dove devi arrivare, e lavori da fuori, Tony, non ci devi salire sopra. E l'abbiamo fatto noi in campagna, nella casetta degli attrezzi. La guaina liquida sotto il cemento, io l'ho data così a rullo da fuori, mica ci ho cazzato sopra, aveva votato un camero good, tutto a rullo, è uscito un capolavoro, Tony. Ma con rullo, con le ondoline avrà bene, non lo so, io se lo vedo ci ricco, lo faccio a spese mie, due bidoni di quella guaina liquida, invece non sono 27-28 al bidone a fare del genere, non mi frega niente, anche 30-40 euro non mi ha fatto nulla, due bidoni, rullo, sempre lo fa fare, non gli chiedo niente, se no sarebbe il culo. No, cazzo, te lo fa fare, te lo vai, non gli rimanco nulla, tu compri due bidoni di quel materiale plastico rosso, ok, c'è anche grigio se lo vuoi, perché io l'ho usato grigio, così non si vede nulla, perché è del colore dell'ondolina stessa, e si dà il rullo, Tony, vai tranquillo, non ce n'è problema. Tu bagni bene il rullino e poi glielo passi sopra e fai l'altro. Nel momento che lui sta asciugando, ci deve essere una bella giornata di sole, perché deve asciugare. Al momento in cui lui sta asciugando e sta già iniziando a indurirsi, un'altra abbassata sopra, in modo che faccia spessore e l'acqua non passa. Cerca di saldarlo, capito? Cerchi di saldarlo in una maniera o nell'altra, ma si può lavorare da fuori, perché l'ho visto, ci arrivi tranquillamente con un telescopico, perché il telescopico è 2+2, quindi a voi arrivarci, si compra un manico telescopico, sempre dal bricco, per rullino, si mette il rullino e tu fai un lavoro fatto bene. Oddio, fatto bene non si può dire, però dico, almeno l'hai messo in sicurezza e non ti entra l'acqua. Quello senza ombra di dubbio. Sì, le spaccature che sono nell'ondolina sono di mezzo centimetro, praticamente 5 mm. Sì, il massimo che sono, perché le ho viste io. E quindi ovvio, quando piove filtra sotto, va a finire nella tavola è tipo perlinato e filtra l'acqua, cammina a tutte le parti, non so, filtra talmente il cemento, cazzo, ho fatto il coso, non ero regno, bah. Bene, cosa volevo dirti? Non lo so, per me sabato prossimo, se non piove, si può anche fare. Io non volevo fare, Tony, te lo dico per te, perché non puoi passare un inverno in quelle condizioni. È anche bella quella veranda, è nel senso che è utilizzabile, capito? È in ordine, quindi perché non farlo quel lavoro? Non c'entra niente, anche se è largo. È bello giagato quel materiale, qua l'ho usato io e ti dico che pare il succo. È bello giagato. Quando tu glielo passi una prima volta nella spaccatura larga e cola, inizia a fare spessore, ne dai 2-3 passate nello stesso punto. Stai tranquillo che ero già la dappa la spaccatura, no Manuel? Anche se non la tappa, rimetti qualcosa sotto e tu riempi sopra. Quando è asciutto, gli togli il tappo che gli hai messo sotto e glielo passi anche sotto, una passata di mano. Comunque, Cla, non è solo tanto il fattore che mi cade acqua. Forse solo acqua, sarei, vabbè, vaffanculo, sì, dà fastidio, quello che vuoi, rovina tutto, eccetera. Ma quando vaseva che, a parte l'acqua, si trasporta anche la mondezza che c'è sopra, e tutti i puntini, niente, cose, eccetera. Poi devo passare la scopa, devo spazzare, devo lavare, mi rompe le palle. E non va bene, Tony, non va bene, non è manco igienico una cosa del genere, dai, perché, insomma, roba degli uccelli.